cerco tutto l'amore che ho per te, che ho per te. Cerco le ragioni, cerco le emozioni, cerco tutto quello che tu hai fatto per me, hai fatto per me. E alla fine trovo le parole da me. Voglio dirti cose che non ti ho mai detto prima, forse per fare cose che non ho mai fatto per te. Se tu vuoi questo ricordo di noi, mi fermo al mattino prima di andare, mi fermo a guardare il tuo viso, dove il tuo sorriso c'è le rughe in questa vita. Un attimo sembra infinita, senza tempo ciò che abbiamo dentro lo portiamo nel cuore. Basta due parole, trova il coraggio le mie azioni e sotto queste le mie intenzioni. Dopo ogni tempesta han più valore le emozioni. Ho cercato nel tempo di non deluderti mai, sempre sono riuscito, lo sai, sbagliato, ci ho provato, lo sai, per essere come tu mi vuoi, ma non sempre ti ho ascoltato. Anche se oggi non mi tieni più per mano, grazie a te posso andare lontano. Anche se oggi non mi tieni per mano, grazie a te posso andare lontano. Dall'alba al primo mattino, grazie a te, in questa strada io cammino. In questo mondo sono vivo, dentro di me porterò sempre il ricordo di te. Devo volare quando mi dicevi vai avanti, non ti fermare. Un giorno cadi, ma poi ti devi rialzare. Sono le cose vere che devi apprezzare. Ti guardo in silenzio, ti guardo e poi sento, te lo dico e non mento, che basta un abbraccio. La forza di questo viaggio, la forza che tu mi dai, lo so che capirai che tu per me sei la sola, l'unica, sei l'angelo. Tutti cerchiamo, ma a volte per scoprirlo devi prenderlo per mano, fermarsi, guardarsi negli occhi piano piano, nei ricordi di ieri, di tutte le volte che tu c'eri per me.